Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Tutte le creature viventi, tutte le piante sono parimenti essenziali alla vita e ognuna ha un suo posto. Ogni animale dimostra la sua ragione d'essere con atti precisi. I corvi, le poiane, le mosche, anche i serpenti, pur diversi tra loro, hanno qualcosa in comune, hanno un'utilità ed una ragion d'essere. In origine, probabilmente, gli animali hanno vagato sopra molti estesi paesi prima di trovare il luogo più adatto per vivere. E questo perché ogni essere vivente dipende dalle condizioni naturali che lo circondano. E dunque gli animali e tutti gli esseri hanno riflettuto a lungo prima di scegliere il posto dove vivere. Questa è una frase bellissima di Okute, che era un capo delle Nazioni Sioux. Angelo, invece di fare la parodia come un tonno svizzero... No, perché a me piace moltissimo la base che ha messo Peter. No, io amo invece la filosofia degli indiani d'America. Sono felicissima di avervi letto questa cosa qua, perché io tanti anni fa avevo studiato così tanto e mi ero talmente appassionata alla cultura dei pelle rossa. Era un caldo giorno nel lontano far west. Che noia, che barba. Dai, continua il nostro ragionamento. Oh, ma sai che tutte le volte menzioniamo i pelle rosse in radio tu ti metti a fare il cazzone? Ma cosa stai dicendo? Confondi. Vabbè, allora, non è vero, perché come tu sai io amo i nativi americani, quindi è una cultura che amo veramente tanto, sia per lo sciamanesimo, per il rispetto che avevano per la natura, per il fatto che si sentivano parte integrante di una rete che rappresentavano tutto, insomma, quindi era... E soprattutto perché io quando ho iniziato a leggerli e a studiarli, la cosa che mi aveva colpito era questo estremo, infinito rispetto per tutto ciò che era... tutto l'ambiente che lo circondava, perché loro raccontavano favole sul respiro delle pietre, perché secondo loro anche le pietre respiravano. Tutte le volte che dovevano abbattere una pianta, un albero per costruire i tipi, che erano le loro tipiche tende, dicevano una preghiera all'anima della pianta che si era sacrificata. Però per... adesso ti lancio anche una provocazione: non erano vegetariani? Vabbè, ho capito. Loro però avevano un rispetto dell'animale, perché quando veniva cacciato il bisonte non ne andava sprecato niente, perché dicevano che visto che quell'anima si era offerta per la loro sopravvivenza, loro dovevano... era un modo anche per ridare una nuova vita, utilizzare tutte le parti del bisonte, non veniva sprecato niente. Un'altra cosa è che per loro gli animali erano anche simbolo, cioè erano guide spirituali, erano... Pensa che quando insegnavano i ragazzini a cacciare, la prima cosa che dovevano fare i ragazzi era di andare dove c'erano gli animali e osservarli, passare molto, molto tempo nell'osservare le loro abitudini. Dopo insegnavano loro a seguirne le tracce. Loro dalle tracce, visto che conoscevano così bene il comportamento, sapevano quelle tracce lì che cosa significassero, perché erano proprio in quel punto, dove fossero diretti gli animali, eccetera. E nel terzo stadio imparavano a collegare la loro anima con quella degli animali. C'era un libro, uno dei tanti libri che ho letto, che mi è piaciuto tantissimo, degli indiani d'America, si intitola Uomo bianco scomparirai, che per me è proprio un sogno, capisci? Non so. Scusa, ma perché? No, io oramai facciamo uomo sacco... scomparirai, bianco, nero, bianco, rosso, nero, giallo, è uguale. No, è vero, siamo responsabili dei più grandi atti di criminalità. Gratuita. E quelli che hanno creato le più grandi atrocità su questo pianeta, però siamo anche gli animali che sono dotati del più grande senso di empatia, siamo quelli più estremi. Peccato che tu mi insegni che se dovesse scomparire il genere umano dalla terra, il mondo andrebbe avanti uguale, anzi meglio. Se tanto io non insegno a nessuno, tantomeno a lei. Se scompare un'altra specie, puta caso le api, che stanno scomparendo, noi abbiamo pochissimo da vivere ancora. Dipende, ci sono delle specie che hanno una particolare funzione determinante per la vita su questo pianeta, certamente non sono gli esseri umani tra questi. Questo articolo che a me ha colpito molto sta sul portale Il Patto Tradito di Ermanno Giudice. A me ha colpito tanto questo articolo perché nell'articolo Ermanno dice: se avessimo mantenuto il patto che ci vedeva custodi di un mondo nel quale tutte le creature contribuivano al mantenimento dell'equilibrio, se non avessimo rotto questo accordo per ingordigia e presunzione, forse l'uomo avrebbe avuto minor progresso ma maggior felicità. Condivido in pieno. Ah, sicuro, sicuro. Tra l'altro recentemente ho visto un documentario su Netflix che si chiama Minimalism, se non mi sbaglio. Sì. Molto molto interessante, lo consiglio a tutti quelli che ci stanno seguendo, perché parla di un sacco di cose, tra cui anche questo modello che ci hanno imposto a partire dagli anni 60, no? di accumulare, consumare, no? Che deve reggere un'economia in cui tutto quanto è retto dal consumo, dal guadagnare sempre di più per poter comprare sempre di più. In questo modo praticamente consegni la tua vita nelle mani di terzi, no? Mentre le persone che hanno fatto questo documentario, ed è ormai diventato un movimento, loro mettono in dubbio questo modello. Cioè, veramente avere successo ed essere felici nella vita significa tutti quanti muoversi in quella direzione in cui tu devi avere tanto e consumare tanto, ma poi neanche ti godi tutto quello che c'è. Esattamente, dobbiamo imparare dagli animali. È scritto anche sul Vangelo, come tu mi insegni, che gli uccellini non si preoccupano di avere un tetto sulla testa, no? E grazie a questo Dio provvede. Allora noi dobbiamo recuperare un pochino di questa cosa. Non è necessario possedere tutte queste cose, che poi alla fine sono loro a possedere te e distruggono il pianeta. Comunque niente, andatevi a leggere questo articolo, perché lo trovo molto bello, dove Ermanno Giudici fa il pattotradito.it. pattotradito.it. Noi facciamo una breve pausa e vi raccontiamo un sacco di cose interessanti anche oggi. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, quello ci si chiede. No, ho avuto la fortuna di parlare con una persona fantastica che mi ha aperto a un altro nuovo mondo. Che cosa c'è? No, è proprio per questo. No? Ci chiediamo sempre se sono felici i nostri cani, i nostri gatti o gli animali terrestri. Però a volte ci scrive anche qualcuno che dice: ma parliamo anche di, che so, cetacei, delfini, balene. Qual è la loro animali marini. Il mondo dalla loro prospettiva? Cioè, com'è la prospettiva del cetaceo? Di che un delfino, vita fa? Del delfino, ma soprattutto, ma noi nei nostri mari in Italia, secondo te ce li abbiamo questi animali qui? Li hai mai visti? A me piacerebbe molto vederli, li ho visti in qualche documentario. Per esempio, mi sembra che in Puglia, forse a Taranto, c'è uno studio. Ma pensa che ho scoperto ieri che praticamente sono tutti concentrati a Bordighera. Sì, fanno un rave party a Bordighera. È vero, ma ne parleremo adesso. Tutti. Adesso te lo faccio dire dalla persona proprio più accreditata, che perché a me tu non credi mai. Ovviamente io ho questa... No, perché? Ti credo. Cioè, perché sì, perché devi dire queste cose, Rosita? Allora, abbiamo con noi Sabina Airoldi, che è responsabile delle ricerche sui cetacei dell'Istituto Tetis. Pronto, Sabina? Sabina, ci sei? Eccomi, sono qui. Ho saltato qualcosa sui cetacei dell'Istituto Tetis, però del Santuario Pelagos. Sì, esatto, nel senso che io sono, diciamo, uno dei direttori di un progetto di ricerca dell'Istituto Tetis che si occupa delle ricerche all'interno del Santuario Pelagos, un'area marina protetta istituita proprio per tutelare i cetacei del nostro Mediterraneo, perché ha ragione Rosita, noi siamo pieni di balene e delfini, anche benissimo. Se lo sanno in pochi. Capisci? Benissimo, ma benissimo. Soprattutto ieri io mi sono fatto una chiacchierata con Sabina e ho adorato, per me è stato un regalo, Sabina, te lo dico proprio qua in diretta. Perché io tutte le volte che scopro queste cose nuove, questi mondi, vedo la vita, mi migliora la mia prospettiva, no? Nel rapportarmi. Sapere anche che i nostri mari sono così ricchi di anche questi animali qui mi piace. Perché vuol dire che sono tutti quanti concentrati soltanto a Bordighera. Io sapevo di un istituto di ricerca, per esempio, nel Golfo di Taranto, se non mi sbaglio. Allora, ovviamente i cetacei del Mediterraneo sono in diverse aree del Mediterraneo, quindi sono ovviamente così dispersi nel Mediterraneo. Però devo dire che il bacino Corso Ligure Provenzale, quindi sostanzialmente le acque del ponente Ligure, insomma della Liguria, del Mar Ligure Occidentale, la Provenza, il Golfo del Leone, sono i più ricchi, cioè qui c'è la maggior concentrazione. E se vogliamo dare dei numeri, abbiamo, che poi a me viene molto bene dare i numeri, soprattutto in questo periodo, perché sono un pochino stanca, perché abbiamo appena chiuso una manifestazione di 3 giorni importante qui nella città di Sanremo, quindi la stanchezza, devo dire, mi aiuta aiuta a dare i numeri, ma insomma, che naturalmente questi sono numeri scientifici seri. Uh-huh. Dunque, abbiamo in Mediterraneo abbiamo 8 diverse specie regolarmente avvistate. Una balena, quindi un misticete, uh-huh, la balenottera comune, l'animale più grande al mondo secondo solo la balenottera azzurra, e qui parliamo di un colosso di 24 metri, wow, pesante 60 tonnellate, mica di una robetta da niente. E poi abbiamo altre 7 specie di odontoceti, quindi di cetacei con i denti. Quindi queste sono quelle in Mediterraneo. Sono tutte dentro santuario, ma sono in alta concentrazione. Allora, di balene stiamo parlando di 300-400 balene. Wow! Cioè, noi nel Mediterraneo abbiamo 300-400 balene? Esatto, sì. Un centinaio di capodogli. E vogliamo parlare della Stenella striata, che è il delfino, quello più comune, il più abbondante? 38.000 delfini, come facciamo? Solo di questa specie. Fantastico, fantastico, fantastico, la Sabina, fantastico. Ma bravo. Poi, allora, ho un po' di domande. Prima di tutto, cioè, come fa ad essere un santuario? Non è delimitato, no? Perché io si immagina il santuario come una certa area vigilata, è la stessa cosa che si fa sulla Terra praticamente. Più o meno sì, sostanzialmente il santuario è una tipologia di area marina protetta, cioè è una, diciamo, una tipologia di zona protetta. Che cosa succede? Succede che nel 1990, andiamo uh-huh, indietro di quasi 30 anni, nel 1990 proprio noi, l'Istituto Tetis, che nasce a Milano, perché la nostra sede è a Milano, l'Istituto Tetis Onlus, quindi una non profit, un'associazione, un istituto di ricerca non governativo, dopo che ci siamo resi conto, pattugliando i mari italiani, che proprio la zona più ricca di cetacei era proprio la zona della Liguria, del ponente ligure, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati con il supporto del Principe Ranieri e del Rotary di Porta Vercellina di Milano, andiamo a Bruxelles e proponiamo a Italia, Francia e Principato di Monaco proprio di istituire un'area marina protetta per tutelare i cetacei del Mediterraneo. Ma che meraviglia! Ci sono voluti 10 anni, ma nel 99 viene istituita, insomma c'è il primo accordo per l'istituzione, e quest'anno facciamo 15 anni di santuario Pelagos, perché poi l'Italia ci ha messo qualche anno per ratificarlo, ma nel 2017 sono 15 anni che esiste questo santuario, dove alcune attività che vengono ritenute naturalmente estremamente pericolose per la sopravvivenza di questi animali vengono vietate. Tipo? È proprio recentissima la richiesta, è comparsa su tutti i giornali, la richiesta ad esempio di una società norvegese che voleva fare delle prospezioni geosismiche ai limiti delle acque del santuario, quindi all'interno sono ovviamente vietate, ma la volevano fare praticamente a pochissime miglia all'esterno, nella parte, diciamo, tra la Sardegna e la Francia. Il nostro ministero giustamente lo ha vietato. Meno male, anche meno se, male. Esatto, perché? Perché le nostre evidenze scientifiche hanno sostanzialmente provato che purtroppo questi spari fortissimi che vengono fatti dalle navi proprio per poter definire e capire se ci sono dei giacimenti di gas o di petrolio, in realtà sono talmente potenti e possono propagarsi per centinaia di chilometri, e quindi avrebbero creato, panico, rappresentato una minaccia, esatto, una minaccia anche per i nostri cetacei. Ecco, quindi questo è un esempio in cui il santuario Pelagos ha vietato. Ovviamente i limiti sono dei limiti che noi abbiamo deciso, dei limiti. Beh, li avete decisi proprio per rendere la vita serena e naturale il più possibile a questi animali. Sì, anche se è vero che purtroppo bisognerebbe proprio adesso, insomma, quello che stiamo cercando di fare è proprio quello di cercare di ampliarlo in realtà, perché giustamente i cetacei, sapete, non sono cozze, non sono legate agli scogli, si muovono abbastanza. Senti, Sabina, i cetacei non sono cozze, è bellissimo. E no, si muovono, e qui parliamo di animali che si fanno 1000, 1500, 1600, anche 2000 chilometri di navigazione in giro per il mare. Noi abbiamo messo dei tag satellitari e abbiamo visto delle balene partite da Lampedusa, dove, fantastico, d'inverno sono andati a mangiare i gamberetti laggiù, e ascoltate, in cinque giorni da Lampedusa sono arrivati davanti a Sanremo e Corsichera. Senti, io hanno fatto la passeggiata, esatto, di corsa, di salute. Ci siamo proprio messi bip bip, sai quando su il computer dici bip bip e vedi sta balena che corre, dici, ma dove va sta balena? Senti, ma posso fare il mio angolino di quark per chiederti una cosa? Certo, allora mi risulta, certo, che da una ricerca fatta sulle balene, adesso non so dirti che balene, via dicendo, però pare che loro comunichino, no, con questi suoni attraverso l'acqua, ma anche attraverso la terra, cioè pare che questi suoni si vadano a colpire la terra e che si trasmettessero questo loro comunicare anche da mare a mare, da oceano ad oceano. Allora, loro sì, soprattutto i misticeti, cioè le balene vere e proprie, quelle con i fanoni sostanzialmente, con quella specie di spazzolone in bocca invece dei denti. Quindi le balene producono quelli che noi chiamiamo gli infrasuoni, cioè dei suoni a bassissima frequenza, quelli che noi non sentiamo, non diciamo purtroppo, perché noi siamo così grandi. Un po', sì, noi ci sentiamo, diciamo, maluccio, perché noi sotto i 20 Hz non sentiamo più nulla. Vabbè. E loro producono esattamente questi suoni, che sono dei suoni che hanno la capacità di propagarsi per distanze enormi. Tanto per fare un'idea, se una balena, una balenottera del Massachusetts, ad esempio, quindi, sì, in America, sulla costa americana, a Cape Cod, decidesse di farsi una chiacchierata con una balenottera norvegese, lo potrebbe fare tranquillamente. Dai. E il suo suono si propagherebbe lungo l'intero Atlantico, passerebbe da una parte all'altra. Il problema è il rumore che noi facciamo, noi rumore di origine antropica, di origine umana, perché noi tra le navi, il traffico marittimo, le prospezioni, i porti, ostacoliamo questa comunicazione. Cioè, noi possiamo dire che di rumore che mascherano i suoni dei cetacei. Quindi noi possiamo dire che senza l'essere umano le balene sono potenzialmente tutte quante collegate tra loro attraverso la loro comunicazione. Tutte quante, non so se riescono proprio a passare tutto un continente, però è vero che questi tipi di suoni si propagano anche a terra. Ad esempio, i terremoti fanno questi suoni a bassissima frequenza e hanno proprio, no, la capacità. In fondo il rumore non è altro che un'onda, certo, che si sposta in un fluido, e forse più nell'acqua, o meno dentro. Forse nell'acqua loro sono facilitati. In un fluido, ma anche nei solidi. Cioè, sì, le onde sonore, certo, si propagano molto più, certo, velocemente, più stabilmente per i solidi. Da quello devo andare a recuperare quella ricerca, così poi... Senti, ma comunque è verissimo, si propagano anche a terra. Adesso io non so, visto questa ricerca, non so, diciamo, per quanto spazio, insomma, non so per quanto. Però sicuramente il suono si propaga anche nella parte solida, insomma. Senti, io sono 47 anni che praticamente vado a Bordighera, da quando ho 5 anni, tutti gli anni vado lì precisa nell'estate, e non avevo mai saputo che quel mare lì è così caro. Ogni tanto si sentiva dire hanno avvistato una balena, e dicevo sì, vabbè, figurati una balena qui. Senti, a Bordighera. Però scusami, no, volevo dire che te l'ho già chiesto ieri, perché io associo molto il fatto che ci siano tanti animali così che riescono a convivere in un habitat al fatto che probabilmente il mare è più pulito degli altri? Allora, purtroppo mi tocca ribadire, come ho detto ieri, che purtroppo non è così. Cioè, intanto il nostro Mediterraneo è molto inquinato, è uno dei mari più inquinati al mondo, e questa è una realtà. Il fatto è che però, e anche questa zona, diciamo, del Mar Ligure, purtroppo non è meno inquinata di tutto il resto del Mediterraneo. Il fatto è che però qui c'è molto cibo, perché a differenza del resto del Mediterraneo, qui per un complesso sistema di correnti abbiamo una quantità enorme di cibo che sostiene sia la presenza dei cetacei, ma anche un'enorme presenza di pesce, quindi di tonni, di pesce spada, di calamari, di gamberi, insomma. Questo, quindi in realtà loro vengono qui perché c'è tanta pappa. Quindi l'animale va, dove trova cibo, sostanzialmente dove trova il cibo. Allora aspetta, Sabina, aspetta un attimo che facciamo una breve pausa e ricontinuiamo con te subito dopo. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, stavamo parlando con Sabina Airoldi, che è responsabile appunto di ricerca dei cetacei. Abbiamo scoperto che il nostro mar Mediterraneo è pieno di animali meravigliosi, di cetacei. Neanche, secondo me, se facciamo un sondaggio in Italia, non lo sa nessuno, nemmeno gli animalisti o gli amanti particolari. Quante Sabina, che è ancora con noi, Sabina Airoldi, quanti delfini hai detto che ci sono? Allora, di una sola specie, la stenella striata, 38.000. 38.000, pazzesco. 38.000, stimati con i survey aerei finanziati dal Ministero dell'Ambiente, quindi proprio un dato, insomma, una stima abbastanza... E poi ci hai detto che c'è una balena di una specie che però è da sola, non ci sono i suoi consimili, ho capito bene? Aspetta, no, non ho capito. Forse era una sola... di cetacei, di balene, dicevi tu, ci sono 8. Mi sembra specie differenti. Scusami, sì. Allora, ci sono 7 specie di cetacei con i denti, quindi gli odontoceti, e una sola balena vera e propria, cioè una sola con i fanoni, cioè di quelli sai che hanno. Ma che intesa filtrano. Come specie o come proprio solo come, lei? Come tipologia, no, come tipologia, nel senso che i cetacei si dividono in sostanzialmente nelle grosse balene che filtrano l'acqua e mangiano il plancton, e invece poi i delfini e i capodogli che invece hanno i denti e diciamo sono predatori più attivi, sono tutti carnivori, ma mentre la balenottera, le balene e le balenottere sono dei filtratori e quindi fanno parte dei misticeti, ed è l'unico regolarmente avvistato è la nostra balenottera comune. La balena di che cosa si nutre? La nostra balenottera comune di piccoli gamberetti, piccoli gamberetti. Fortuna non mangiano i gamberi di Sanremo, così non entrano in competizione. quelli li lasciano agli umani. Esatto. No, loro mangiano guarda, dei piccoli gamberetti. Tra l'altro, tu che vieni spesso a Bordighera, se venissi a Bordighera verso marzo, vedresti che a Capo Sant'Ampelio, sulle rocce, a marzo, a un certo punto, la notte, piaggiano questi piccoli gamberetti che i pescatori la notte vanno a prendere, perché poi li usano insomma per pescare, perché sono proprio questi piccoli gamberetti sono fanno parte, insomma, vengono anche detti il krill mediterraneo. Il krill, per dirne, però comunque la balenottera se ne mangia tipo una tonnellata al giorno. Immagino per nutrirla esatto. Una balenottera. Esatto. Senti, c'è una cosa meravigliosa: voi vi sostentate in un modo molto bello, perché si uniscono una serie di cose, la possibilità di far vivere un'esperienza bella, particolare alle persone comuni che non sanno che... Cioè, chi vuole sostenervi, perché già così sentirti parlare è bellissimo, addirittura, cioè, non solo vi sostiene, ma può fare lui in prima persona un'esperienza che si ricorderà per tutta la vita. Esatto. Allora, chiunque per una settimana può diventare un cetologo, cioè un biologo marino che viene in barca e in prima persona contribuisce alla raccolta dati, oltre che a incontrare questi animali. E ovviamente si parla di incontri molto ravvicinati, perché una persona può imbarcarsi insieme ai ricercatori dell'Istituto Tethys. Abbiamo due progetti, uno qui nel Santuario Pelagos e uno anche in Grecia Ionica, quindi sono due le postazioni, diciamo, di Tethys aperte ai non addetti ai lavori, in che noi chiamiamo i progetti di citizen science, la scienza fatta dal cittadino. Una persona qualsiasi, il panettiere di Milano, il commercialista di New York, lo studente universitario, viene in barca con noi, fa la vita, affianca i biologi marini nel loro lavoro e può anche godersi per cinque giorni, esatto, da adesso sono già iniziate fino a fine settembre. E può vivere l'emozione di incontri ravvicinati del terzo tipo con balene, capodogli, delfini e quindi raccoglie tempi respiratori. E non solo li vede, li ascolta, perché noi che siamo terribili a bordo non solo li spiamo con gli occhi, ma li spiamo anche con gli idrofoni sott'acqua, per cui studiamo le loro voci, come comunicano, le loro vocalizzazioni. No, insomma, fantastico. Allora io mi prenoto Sabina, per chi volesse avere più informazioni, per sapere come prenotare la settimana con voi. Allora, tutte le informazioni sono sul nostro sito. Il nostro sito, e ve ne do quello un pochino più semplice, che è www.baleneedelfini.org. Allora, quindi, www.baleneedelfini.org, così potete vivere questa esperienza fantastica che va da aprile a settembre. Va da maggio a fine settembre. Da maggio a fine settembre. Esatto, lo slogan sostanzialmente è, insomma, invece di stare seduto su una poltrona a vedere un documentario, ma vieni a viverlo sto documentario, esatto. Vieni in mare, vieni a incontrare, perché oggi che cosa c'è di più intenso, di qualcosa che dà di più di emozionarsi, e vi assicuro che essere davanti a una balenottera di 24 metri che gira la testa di fianco alla nostra imbarcazione, che gira e vedere il suo occhio che ci guarda, mi emoziono io. No, guarda, io mi emoziono solamente a sentirtelo dire, quindi non vedo l'ora. Sabina, e quindi il contributo che uno lascia per poter soggiornare, no, questa settimana con voi, raccogliere, certo, date, servirà poi a sostentare il progetto. Bellissimo, assolutamente, mi piace. Una donazione all'istituto per aiutarci a coprire le spese per la ricerca scientifica e la conservazione. Bene, io vi assicuro che appena organizzerò questa cosa con Sabina faremo video a tutto spiano, li butteremo su tutti i social, perché io devo assolutamente documentare, far vedere che avrò avuto un incontro, che ne so, con un delfino, che li amo la follia. Sabina, grazie mille, grazie, buon Sabina lavoro. Eroldi. Grazie a tutti voi. E a presto. Grazie, un saluto. Ma da una bella notizia ad un'altra, perché pare, adesso bisogna capire, bisogna approfondire questa cosa qua, che abbiamo chiuso la vendita di carne di cane a Yulin. Sapete che ogni volta, che quando arriva giugno, è un tempestare social di immagini cruente, e quindi siamo in linea con Ermanno Giudici. Pronto, Ermanno? Ciao, pronto, buona. Ecco, che di te leggiamo sempre gli articoli da parte del pattotradito.it. Sì, allora, perché sono molto interessanti, poi sono, insomma, ci fanno scoprire come adesso questa cosa di Yulin. No, sta roba di Yulin sta a cuore praticamente a tutti gli animalisti cinofili, tutti quelli che amano gli animali. Dicono, madonna mia, ma che cos'è questo scempio? Fermatelo. Sul tuo blog si è appresa una notizia, ma è reale, cioè ce la confermi? Cosa? Allora, sembrerebbe che le autorità locali abbiano interrotto per le due settimane del festival il permesso di vendere carne di cane, di macellare cani, e quindi da questo punto di vista diciamo che la vittoria sembrerebbe essere arrivata. Ovviamente, trattandosi di Cina, bisogna prendere tutte le cose con beneficio di inventario, nel senso che sono notizie che corrono sulla rete, che sono confermate anche da Animal Asia, che è la più grande associazione che si occupa di animali appunto nel sud-est asiatico e che segue questa cosa di Yulin, e però diciamo anche che è soltanto un divieto temporaneo, per cui nella realtà non si potrà macellare cani a Yulin nelle due settimane del festival, ma questo non sarà un divieto permanente per tutta la Cina. Perché, scusa, allora farlo così a spot, che senso ha? Ma il senso sostanzialmente credo che sia prettamente politico, nel senso che la Cina è molto attenta in questo periodo alle proteste che avvengono in Occidente, perché comunque l'Occidente è un grande mercato per i cinesi, una grande opportunità, e vogliono dare un'immagine diversa del loro paese. Bisogna anche dire che il commercio di carne di cane, il consumo di carne di cane non è una pratica diffusa in tutta la Cina, ma soltanto nella parte meridionale della Cina e nella parte, diciamo, della zona della Corea. Tra l'altro, recentemente invece Taiwan ha vietato, inasprendo le pene, ha vietato completamente il commercio e il consumo di carne di cane. Quindi diciamo che piano piano stiamo andando nella giusta direzione. E quello che io voglio dire anche, perché molte volte poi sulla rete sai che si scatenano insulti, cinesi, popolo, cioè noi non siamo poi molto diversi, perché loro fanno ai cani quello che noi facciamo ad altre specie animali. Noi, certo, abbiamo i cani che sono molto vicini a noi, ma non è che nei nostri allevamenti di suini le cose purtroppo vadano molto meglio. Sì, che mi sembra che un ascoltatore mi aveva scritto una mail tempo fa, un italiano che si era trasferito a vivere in Cina, e fra le sue osservazioni diceva che mi sembra, adesso non vorrei confondermi, ma lì per loro mangiare il coniglio è impensabile, cioè Quindi è vero, paese che vai, usanze che trovi, non, qui si tratta soprattutto di etica, quindi sai, sì, come la metti io la mente. Non metterei tanto il punto né sulla specie, né esatto, sul fatto del consumo, ma ne farei una questione di qualità della vita. Esatto. Diciamo che questi cani sono comunque allevati spesso in condizioni tragiche, sono trasportati in condizioni drammatiche, sono spesso rubati ai proprietari, quindi c'è anche mamma un problema di furti, vengono macellati in condizioni igieniche incredibili e potrebbero tra l'altro diffondere epidemie, che è una cosa che comunque preoccupa anche le autorità sanitarie cinesi, quindi ci sono tutta una serie di buoni motivi, però diciamo che in genere sul consumo di carne, sugli allevamenti intensivi o sugli allevamenti di questo genere, io credo che noi abbiamo passato ogni soglia di lecito, di accettabile anche per chi fosse onnivoro, perché in effetti stiamo veramente esagerando, abbiamo portato gli animali a vivere una vita completamente innaturale, facendoli diventare da erbivori a granivori, ad esempio i bovini, che ormai si nutrono di mais e non più di erba, quindi stiamo facendo veramente delle follie. Pensate. Infatti, senti, grazie di questa tua partecipazione, noi ti leggiamo sempre perché... No, ci tengo a dire che è vero, ci sono tutte le ogni specie insomma andrebbe tutelata da questo punto di vista, questo divieto posto almeno per quelle 2 settimane, anche se preso per motivi che noi non condividiamo, che perché il vero motivo dovrebbe essere il rispetto degli animali, è comunque un piccolo passo avanti, io spero che si continui in questa direzione. Sì, io credo che la politica dei piccoli passi sia la miglior politica sempre, non si possono pretendere cambiamenti radicali, non li facciamo in Occidente, non li faranno in Oriente, però quei piccoli passi si ottengono. Contano qualcosa, quindi sì, grazie infatti. Romano Giudici per aver riportato questa notizia bella nel suo blog, ilpatotradito.it. Grazie Ermanno, a presto. Grazie a voi. A presto. Ciao, buona domenica. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Oh, e chiediamoci se si è felici. Ecco, chiediamoci soprattutto, no, e cerchiamo di vedere il mondo dalla prospettiva animale. Ho preso, abbiamo parlato fino adesso con Ermanno Giudici, sempre dal suo blog Il Patto Tradito, che è molto interessante. Uh-huh. Ho letto, sono rimasta agghiacciata da un articolo dove c'è la fotografia di una bambina che avrà, sì, 8 anni, massimo 10, biondina, uh-huh, con gli occhi chiari, con in mano uno scoiattolino squartato con la, oddio, pancia aperta. E perché? E sotto c'è pure un video che non ho avuto il coraggio di vedere, perché c'è una scuola in Inghilterra che insegna a uccidere, perché dice: insegnare a uccidere può rappresentare un insegnamento etico oppure significa alterare in un adolescente il normale fluire dell'empatia, alterando un equilibrio importante? Perché secondo questa scuola inglese i ragazzi devono essere abituati a vivere nella natura, imparando che per sopravvivere bisogna anche saper uccidere, che è un modo davvero singolare per mostrare agli adolescenti il rapporto che possono avere con la natura. Certo. C'è su Channel 4, una TV online inglese, hanno fatto vedere il video, che io non ho avuto il coraggio di vedere, su una scuola inglese che fra le altre cose insegna i suoi giovani allievi a cavarsela nella vita all'aria aperta, comprendendo in questi insegnamenti anche la sopravvivenza alimentare, che in questo caso significa uccidere, spellare, spiumare, pulire, tagliare a pezzi e cucinare animali. Ma solo questo? Cioè per mangiare solo questo? No, solo questo, perché sai, ci si rifà sempre al vecchio mito dei cacciatori e raccoglitori, che però sappiamo che vivevano soltanto per un 15% di proteine animali. Ok, però la domanda è quella che ti ho fatto prima, cioè insegnare a uccidere può rappresentare un insegnamento etico oppure significa alterare in un adolescente il normale fluire dell'empatia, alterando un equilibrio importante? Perché oggettivamente nella nostra società, in Inghilterra e noi, quando mai ci ritroveremo nei boschi a dover cacciare gli animali per squartarli, saperli spellare, fa sta roba qua? Allora, la mia opinione è: non sono d'accordo, ma se le persone imparassero a cavarsela così nella natura, faremmo molti, molti meno danni di oggi. Perché è proprio per il fatto che non siamo in natura a uccidere, spellare, via dicendo, che ci rifacciamo agli allevamenti intensivi. Ecco. Ma parlando di cibo, sì, adesso abbiamo una nostra amica Mara Di Noia con la sua rubrica Piatti e Ciotole. Piatti e Ciotole. Mara, salvaci tu, Santa Mara. Sì. Salvaci tu. Buongiorno a tutti. Che cosa ci cucini oggi di buono? Allora, io vi propongo oggi un dolce, un dolcetto, perché possiamo condividere con i nostri amici animali anche dei dolci leggeri, mm-hmm, anche se sono nutrienti, che hanno un alto contenuto di grassi insaturi che, ricordiamo, sono preziosi per la salute di tutti gli esseri viventi, mm-hmm, senza zucchero, sfruttando quindi il potere dolcificante della frutta. Wow. E anche, sì, ecco, allora ci occorrono 200 grammi di farina di riso, 300 grammi di farina integrale o di tipo 2, 100 grammi di semi di sesamo tostati, 100 grammi di semi di girasole tostati, 300 ml di succo di mela, 2 cucchiai di olio di mais o di girasole, 200 grammi di albicocche secche a pezzettini, mm-hmm, e un pizzico di sale marino integrale. Per prima cosa mescolare tutti gli ingredienti secchi, aggiungere l'olio e mescolare con le mani, uh-huh, unire gli altri ingredienti e amalgamare il tutto. Su una teglia precedentemente unta di poco olio, mettere una cucchiaiata dell'impasto ottenuto e schiacciarla per renderla abbastanza sottile. Continuare così fino a esaurire il composto e riempire quindi la teglia. Infornare in forno già caldo per 25 minuti a 180 gradi. È un dolce veramente nutriente ma leggero, quindi anche le persone che sono un po' a dieta, visto che è il periodo in cui sono tutti alle prese con la dieta detox, esatto, questo dolcetto non inficia nessuna dieta, anzi noi donne che abbiamo spesso un appetito post serale, post cena, possiamo permettercelo. Uno, uh-huh, o due biscotti di questo tipo. I nostri animali non è meglio che non mangino saccarosio, quindi zucchero bianco, ma anche gli esseri umani, uh-huh, e quindi mette a posto un po' tutti. Ma quindi lo possiamo propongo dare anche a loro? Certo. Però, come merenda piuttosto che, allora, un pasto. Chiaramente dipende dalla taglia, per cui un cane di piccola taglia, un biscotto magari eccessivo, gliene daremo un pezzettino. Uh-huh. Ecco, cerchiamo di adeguare alla taglia, uh-huh, ma sono dei biscotti che sono adatti a tutti. La farina di riso permette anche di abbassare un po' il tenore di glutine, che sta dando dei problemi anche ai nostri cani soprattutto. E quindi ecco, cerchiamo di curare molto bene la ricerca degli ingredienti in modo tale da fornire alimenti di qualità. Ecco, anche se sono ricette semplici, le materie prime che utilizziamo sono di buona qualità. Bene, grazie Mara, adesso grazie vado a mangiare. Come al solito ci prepari a un pranzo che siamo tutti pronti mentalmente e fisicamente ad accogliere del cibo sano. Grazie, buona domenica e ci vediamo alla prossima, Mara. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, un abbraccio. Mara, volevo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente riguardo all'articolo che abbiamo letto un attimo fa. Pensa che quando noi eravamo piccoli, andavamo alle elementari, ma soprattutto anche alle medie, quindi già 11, 12, 13 anni, mia madre si rifiutava di farci vedere il TG perché, mm-hmm, era troppo violento. Perché era troppo cruento, e quando a scuola ci facevano fare il tema commenta la notizia del TG dell'altro ieri, noi eravamo tre primule che non sapevano di che cosa parlare, e ho sempre condiviso questa sua scelta, perché lei diceva avranno tutta la vita e tutto il tempo di vedere delle cose difficili, crude, crudeli, e dice perché devo rovinare adesso il periodo dell'infanzia, dei sogni, di credere alle favole di Walt Disney e queste cose qua, che è il periodo più corto della nostra vita. Poi alla fine ci ho messo un po', ma ci sono arrivata. Benissimo. Detto ciò, buona domenica a tutti e buon appetito.